ne container dentro ad un deserto ignoto. In realtà non ho alcuno scopo qui. Ho visto serial killer morire per l'errore di auto impazzite di velocità. Nuvole basse che descrivono le case non hanno corpi contorti da complicità. Perché tutto quel che ho è tutto quello che mi dai. E nulla oggi opprime la città. I pensieri mi assediano così, una vertigine risucchia la mia mente in angoli più bui di folle e crudele libertà. Viaggio che mi porta più lontano, la mia auto docile mi seguirà fino a sbandare sulle curve della mia ragione per farmi sentire fantasma nella mediocrità. Perché tutto quel che ho è tutto quello che mi dai. E nulla oggi ha voglia di stupirmi ancora, una volta ancora. Fuggono lontano da qui. Fuggono lontano. Fuggono lontano da qui.